Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, c'è Filippo Reggi qui vicino a me in regia, a Milano c'è Paolo Corleoni con Giorgio De Luca in redazione. E siamo a Verona, oggi puntata molto speciale, in diretta da Vinitaly, ospiti della regione Veneto. Di solito, come sapete, spesso vicino a me c'è un grande veneto che mi accompagna nei viaggi sportivi del sabato, cioè Andrea Zorzi. Oggi ne abbiamo un altro di grande veneto. Chi è? Lo scopriamo sentendo questo. È il momento di andare via, Ale Ranieri, Ale Simone, via Rossano, via Alessio, via Agostino, la barca azzurra è bella, è bellissima, si stende negli ultimi 300 metri, è uno spettacolo veniano, la protezione inesorabile di Ranieri, Galta Rossa, Sartori, Agostino e Bagnale, dopo una partenza abbastanza insordina, eccole gli azzurri, questi quattro cavalieri delle acque che meravigliosamente stanno stendendo la barca in colpo in acqua, poi la Germania si fa sotto l'Australia, paga inesorabilmente la Germania che ha tentato nei primi 1000 metri di sorprenderci. Ale, Ale Italia, Ale che c'è luce, Ale sotto la tribuna, ultimi 200 metri, c'è ancora la possibilità di dare luce sulla prua dell'imbarcazione tedesca che sembra essere sul momento di tracollo per quanto riguarda l'Australia, ma il campo di Nagata è tutto per l'Italia, nelle ultimi 150 metri, mancano circa 15 colpi, andiamo a vincere questa medaglia d'oro nella nostra grande specialità del quarto di coppia. Agostino Bagnale, ultimi colpi, sta volando anche un'altra sulla prua azzurra, ma non ci ferma più nessuno e vinciamo finalmente questa medaglia d'oro. Caro Rossano Galtarossa, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Chissà quante volte te l'hanno fatta sentire. Beh, questa è la magnifica telecronaca di Bisteccone per il nostro, permettimi di dire, fantastico oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Su quella barca appunto c'eri anche tu con Agostina Bagnale, quadro di coppia. Alessio Sartori, Simone Raineri. Simone Raineri, è stata la tua medaglia più bella, io credo, no? Olimpiche ne hai vinte tre. Quattro. Sì. Sbagliato per con difetto. Pechino ho completato anche la mancanza dell'argento, quindi l'oro di Sydney, l'argento di Pechino, il bronzo di Atene 2004 e Barcellona 92 all'esordio. Naturalmente gli ascoltatori possono intervenire come sempre 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Rossano Galtarossa ci farà compagnia fino alle 17:30 più o meno, parleremo di moto mondiale, poi parleremo anche di calcio naturalmente, perché il weekend che ci aspetta è particolarmente importante. Io sono un po' intimorito, vi dico la verità, perché qui vicino a sul tavolo c'è una sciabola luccicante nuova, un po' di timore, perché dopo il traffico facciamo anche un'esibizione. Io provo a raccontarvela, non mi viene bene come Bisteccone Galeazzi, però cosa facciamo dopo? Ma proviamo a sciabolare una bottiglia di spumante, vediamo se possiamo battezzare questo regalo che mi è stato donato dalla Regione Veneto in occasione della mia presenza oggi qui al Vinitaly di Verona, e quindi questa nuova esperienza. Poi ce la beviamo anche, no? Assolutamente. Vedi di non rovesciarne troppo, perché insomma quella che resta. Cosa bevi? L'impegno sarà quello. Ma apprezzo molto il Prosecco Extra Dry, mi hanno fatto apprezzare anche il Cartizze, che poi ovviamente è una produzione limitata, quindi va anche un po', diciamo, più centellinato, più mirato nel suo utilizzo. Carriera lunga, però bere sì, ma con moderazione, no? Assolutamente, a volte in quanto atleta mi chiedono se posso bere, io credo che sia da mettere sempre l'uso della testa prima, come in tante altre cose, quindi non credo, sono convinto che un buon bicchiere di vino non sia sicuramente deleterio per la performance sportiva, magari non troppo vicino alla competizione, ma durante la preparazione, sempre usando la testa con moderazione, si può integrare l'alimentazione con un po' di questo prodotto. Senti, del nostro territorio. Comunque il Prosecco Extra Dry, classe 72 tu. Io classe 72, sì. Classe 72, gli allori olimpici li abbiamo ricordati, i titoli mondiali sono troppi, cosa dici? Credo di avere una buona media, in 13 mondiali disputati, 10 volte sono salito sul podio e 5 volte è stato per andare a ritirare la medaglia d'oro. Quindi mica male, però classe 72, tante medaglie, non voglio dire sazio di vittoria, perché questo forse non succede mai. Hai ancora delle idee in testa, però. Sì, infatti io sono una di quelle persone diciamo sportivamente irrequiete, ma giustificato dal fatto che, avendo potuto vivere delle emozioni fantastiche, sono sempre a rincorrere la possibilità di riviverne delle altre. Quindi alla soglia dei 38 anni sto ancora pensando di valutare se riesco a programmarmi per un rientro in prospettiva Londra 2012. Sarebbe nel caso la mia sesta Olimpiade. Il richiamo del Big Ben è forte, eh? Per forza. Poi il mio è voga inglese, il mio sport. Non sono mai stato paradossalmente in Inghilterra a remare, quindi sarebbe l'occasione anche per chiudere una carriera, insomma, piuttosto lunga, costellata da molti risultati. Le Olimpiadi sono un bel numero, eh? Cosa ti sei portato dietro oltre a tante medaglie? Ma sono delle esperienze fantastiche. Ce n'è stata anche una piuttosto dura, che è quella di Atlanta 96, dove sono rientrato con un quarto posto piuttosto amaro, dato che eravamo i favoriti. Ci siamo visti sfuggire il podio per 30 centimetri dopo 2 chilometri di gara. Però è stata un'esperienza che mi ha, avendola superata, mi ha formato molto, mi ha aiutato a capire dove potevo aver peccato in alcune cose, mi ha dato anche la ulteriore determinazione, e sono convinto che l'oro che è arrivato 4 anni dopo non sia giunto a caso, ma sia stato anche una risposta a questa delusione a cui ho voluto porre rimedio. La barca che senti più tua è stata quella d'oro, o ce n'è stata un'altra su cui hai detto: beh, questa è la mia barca, questa è la barca della mia vita? Beh, ovviamente un equipaggio che vince l'oro olimpico sicuramente non è un equipaggio stratosferico, grandi compagni, però ricordo con grande affetto anche l'equipaggio nel quale tra l'altro c'era anche un altro componente di Sydney, che è il quartetto di Indianapolis 94, con cui abbiamo vinto il primo oro mondiale storico per l'Italia nella specialità del 4 di coppia, facendo un record del mondo che è stato imbattuto per 11 anni. Quindi mica male. Senti, ma queste telecronache di Galeazzi, t'ho detto prima, ma è vero, l'avrai sentito 1 miliardo di volte, no? Suppongo che tu abbia a casa le registrazioni, certo, insomma, certo. La colonna sonora della tua vita quasi. Ma per voi su quelle barche, questa voce, questo modo così concitato, così appassionato di raccontare le regate, che cosa significa? Sai, per noi, mentre siamo durante le fasi concitate della gara, non possiamo apprezzarle, perché ovviamente al massimo senti lo speaker dello stadio olimpico, così, del campo di regata. Poi con qualche anno di esperienza già immagini che ci sarà, se la tua performance è stata interessante, ci sarà anche questo valore aggiunto. Sicuramente sono servite in uno sport come il nostro, che non ha una visibilità spaventosa, per calamitare l'attenzione di tanta gente che magari non era direttamente appassionata del canottaggio, che però entusiasmata dalle urla del buon bisteccone, magari si sono fermati davanti al monitor per vedere cosa succedeva, e sicuramente questo ci ha aiutato a far sì che più persone seguissero e tifassero le nostre performance. Ma tu con lui che rapporto hai avuto? Voi con lui che rapporto avete? Ma estremamente informale, amichevole. Tra l'altro ho avuto il piacere di affiancarmi a lui a fine agosto dell'anno scorso per commentare la telecronaca appunto con Giampiero della finale dei mondiali svolti in Polonia, dove io non c'ero, insomma, perché mi considero nell'anno sabbatico. Adesso qui davanti a me stanno preparando tutto quanto per la sciabolata di Rossano Galtarossa. Io non sono, ma neanche vicino ad essere bisteccone Galeazzi, però provo a raccontarvela. Allora, il maestro sommelier sta spiegando a Rossano come impugnare la sciabola. Adesso parte il tappo, se non mi sentite più perché mi ha preso. Dunque, vediamo cosa succede. La sciabola adesso è in posizione, serve un colpo secco sotto la gabbietta per far saltare via tutto quanto. Se volete intervenire, già che siete in tempo, 800 24 00 24, poi torniamo a parlare di sport un po' diversi da questi che sto guardando. Allora, la sciabola sta per partire, la lama deve essere praticamente parallela al collo. Eccolo là, è partito, applauso fuori dal vetro, dentro al vetro invece la bottiglia, perfetto, bravo. Abbiamo salvato anche il vino, quindi possiamo grande. Averlo. Possiamo averlo, Ufficialmente sciabolatore, ti conferisco il tappo della tua prima sciabolata. Avete sentito, no? Conferito il tappo della prima sciabolata. Sommelier sciabolatore ufficiale. Sommelier sciabolatore ufficiale, che ha un momento storico questo. Assolutamente, Rossano sì, è diventato sciabolatore. Con tutte le sue medaglie, le sue medaglie olimpiche, adesso ne ha un'altra bellissima, cioè il collo della bottiglia che è saltato. Adesso serviranno serviranno dei bicchieri più tardi. Più tardi magari serviranno dei bicchieri. Operazione perfettamente riuscita, bravo. Poi speriamo che facciano provare anche me dopo, È sempre stato uno dei miei sogni quello di far, sai che figurone fai, eh? Beh, effettivamente è una così un'operazione coreografica piuttosto carina. E vabbè, eravamo in uno spazio un po' ristretto, quindi la preoccupazione era di fare qualche danno all'attrezzatura, ma è andata bene, quindi insomma abbiamo così fatto questo primo esordio positivo. Primo esordio positivo, poi ci sarà modo di ripeterle tutte quante. Senti, come sei messo con le moto? Caspita, con le moto da quando avevo 16 anni mi sono sempre divertito a utilizzare ovviamente delle due ruote enduro, maxi enduro. Poi nel 2004 mi sono fatto un regalo rientrando dalle Olimpiadi di Atene e ho acquistato una Speed Triple della Triumph, tre cilindri, quindi una Naked, una moto che sinceramente non mi piaceva prima quando la vedevo per strada, sì. Mi sembrava quasi un obbrobrio vedere questi due fari così nudi. Ho provato quella di un amico, sono rimasto folgorato dal piacere di guida del tre cilindri, e anche se non ho proprio i miei due metri non mi consento di essere proprio un motociclista vero e proprio. Ci stai sopra. Mi adattavo e mi sono fatto questo regalo, è che adesso a bassa voce devo dire che purtroppo da un anno ho deciso di venderla, perché insomma un po' perché sono diventato papà, cerco di mettere la testa a posto, adesso mi limito all'uso di uno scooterone in città, ma insomma senza con ben poche emozioni. Poi ci vedete d'accordo, perché quei due occhi da rana mi piacciono da morire. Moto mondiale per chi tifi? Beh, Valentino insomma con 9 mondiali credo che sia sicuramente un pilota da ammirare, tra l'altro una così capacità comunicativa impressionante. Mi piace anche l'aggressività a volte ruvida di Jorge Lorenzo, credo sia un'esperienza un po' particolare quella di condividere in qualche modo, anche se pareti provvisorie allestite nel box, comunque sia un po' anche complicato condividere lo stesso team. Sono curioso di vedere i nuovi ragazzi che provengono dalle classi minori, che devono prendere confidenza, visto che hanno avuto solo 6 giorni tra l'altro di prove ufficiali, e come si adatteranno a questa MotoGP. Allora, caro Rossano Galtarossa, parliamone col papà di Valentino. Graziano Rossi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Graziano. Allora, ciao, come andiamo? Andiamo bene, direi. Ieri il bimbo terzo, ma erano solo le prime prove della stagione. Come lo vedi questo mondiale? Stoner è partito subito con la manetta girata. Questo mondiale come lo inquadri, al di là dell'esordio domani in Qatar? Ma guarda, questo mondiale è probabilmente ancora un po' più difficile di quello dell'anno scorso. Questo è possibile perché Lorenzo ha un anno di esperienza in più, perché Stoner quest'anno non avrà il tempo, non troverà il tempo per fare le vacanze come l'anno scorso, quindi sarà probabilmente più presente, perché comunque ci sono almeno un paio di piloti nuovi che possono entrare nel vivo della competizione, e sono Dovizioso e sono Spies, l'americano della Yamaha, secondo me, e Pedrosa senz'altro, quindi è ancora un po' più difficile dell'anno scorso, ecco. Senti, ti faccio fare una domanda da un mio nuovo amico. 4 medaglie olimpiche nel canottaggio, Graziano Galtarossa, grande appassionato di moto, come hai sentito, è appena diventato qui a Vinita di maestro sciabolatore. Te lo passo. Ciao Graziano, Rossano. Ciao, molto ciao. Piacere. Ci siamo incontrati molti anni fa a una premiazione, credo, col primo mondiale di Vale della 125 al Quirinale. Io mi ricordo ovviamente di voi, che avete una notorietà completamente diversa da quella che mi conferisce il mio sport. Intanto se puoi far sapere ti ho sentito parlare da motociclista prima. Vabbè, anche se sono 2 metri faccio un po' fatica a collocarmi nelle moto. Comunque da molti anni mi diverto così a utilizzare questi mezzi per spostarmi. E se puoi portare i miei complimenti a Vale, digli che anche, c'è anche un canottiere che lo tifa, che ammira la capacità di sopportare una tensione così prolungata, perché io alla mia quinta Olimpiade ho sentito molto la pressione addosso, ovviamente ho dovuto gestirla. Lui, per conquistare anche il suo nono mondiale, che è stato ammirevole, vista anche quella che ricordavi, la lotta che c'è stata con gli avversari e la voglia di rimettersi in discussione, la rivedo anche in me. Quindi più che una domanda è un piacere vedere la voglia di continuare, la determinazione di continuare a sentirsi in gamba, a dimostrare di valere ancora un posto in alto nella classifica. Ti ringrazio molto, gli porto i tuoi saluti quando torna, appena torna. Gli occhi della tigre ce li ha sempre Valentino, non gli passano mai. No, ancora no. Lo sentivo discorrere prima di andare via con dei nostri amici. Ancora la voglia di cominciare, la voglia che la prima gara succeda, la voglia di entrare in pista finalmente dopo qualche mese, è ancora quella di quando lui faceva 125. Insomma, questo è poi questo il segreto per continuare ad andare forte fin quando questo sarà possibile, in qualche modo rinnovarselo, questo entusiasmo ad ogni anno, nonostante gli anni che passano, ecco. Ma questa fregola delle quattro ruote gli è un po' passato o no? Direi di no. Lui è un grande appassionato delle quattro ruote. Ti posso dire una cosa però, fino a quando la sua testa sarà nel motociclismo, questa sua passione per le quattro ruote non gli toglie nemmeno un decimo di competitività nel motociclismo, ecco, non lo distoglie per niente, però lui ha una gran passione per le automobili, quindi lui sa che questo sport del motociclismo non potrà continuare per sempre, ecco, quindi in qualche momento credo che ci pensi seriamente, ecco. Seriamente. Graziano, ti chiedo ancora, questa è una mia curiosità riguardo a questo mondiale. Prima hai citato Ben Spies, che è una delle grandi novità di questa stagione, è stato un fenomeno delle superbike. Quanto vale questo ragazzo? Guarda, secondo me questo ragazzo vale molto. Tu sai che gli ultimi tre decimi per arrivare sul podio, per entrare nella MotoGP nel gruppo dei primi quattro, gli ultimi tre decimi sono molto lunghi, no? Quindi probabilmente gli ci vorranno solo due gare per esserci, oppure gli ci vorranno sei gare, oppure magari non ci arriva, sai, gli ultimi tre decimi sono da dimostrare, insomma, ecco. Sì. Lui ha sicuramente un grande potenziale, lui è uno molto tosto. Grazie Graziano, alla prossima. Buona serata. Un abbraccio a Graziano Rossi, naturalmente in bocca al lupo. In bocca al lupo. Sai, quei tre decimi, tu te ne intendi, no, di quei tre decimi da togliere, fanno tutta la differenza del mondo. Il salto di qualità. Volevo chiederti, dunque, Olimpiadi di Londra nel mirino, ma il nostro canottaggio, Rossano, come sta? Perché da Pechino siamo tornati, insomma, stiamo vivendo una stagione un po' buia per gli sport italiani in chiave olimpica. Prima c'era qui Pietro Pillerkotler, anche da Vancouver sono arrivate notizie in chiaroscuro, più sullo scuro che sul chiaro. È un momento molto difficile. Cosa sta succedendo secondo te? Ma sai, lo sport di alto livello non può più essere praticato anche nelle discipline che a volte sono definite minori, ma sono quelle che hanno solo un po' meno visibilità. Non può essere più praticato nel tempo libero, ma va fatto solo a livello professionale, anche se, come nel nostro caso, non è riconosciuto questa condizione. Però immagina che atleti che come me hanno dovuto fare fino a 13 allenamenti a settimana sicuramente non lo fanno come dilettanti, ma lo fanno come professionisti. Questo significa andare un po' a selezionare, a limitare l'utenza. Questo si scontra un po' anche col periodo contingente di difficoltà economica anche per le federazioni, per i club. le federazioni utilizzano gli atleti che sono cresciuti dai club, quindi anche insomma tutte le società sportive devono prima produrre quel gruppo di atleti tra cui poi verranno tirati fuori tirate fuori le squadre nazionali. Le prestazioni sono sempre più esasperate, quindi quei tre decimi sono sempre più difficili da limare, da raggiungere, e a volte ci sono degli atleti che si demoralizzano, comunque non, insomma, si spaventano dal fatto di lavorare anche molto e non riuscire magari a conquistare subito dei risultati, degli obiettivi. Certo. A volte ci vuole pazienza, quindi un lavoro anche molto delicato da parte dei tecnici, dei dirigenti, cercare di seguire, coadiuvare questi atleti nel capire anche momenti di questo tipo. Parlavo con Pietro prima, sì. Anche nel loro sport, nello sci di fondo, le variabili tecniche sono talmente tante, dalla neve agli sci, certo, all'attrezzatura, che a volte un atleta può arrivare preparatissimo a un appuntamento più importante della sua carriera e poi vedersi sfuggire il risultato, il podio, perché magari le condizioni meteo hanno fatto variare le caratteristiche del manto nevoso e quindi la scelta del materiale non risulta più adeguata. Per fortuna non in tutte le discipline c'è questa difficoltà, però insomma non è mai una passeggiata. Quello che voglio dire però è che lo sport è una di quelle attività dove si vivono delle emozioni fantastiche, quindi secondo me dopo 20 anni di sport di alto livello dico vale la pena, di fare qualche scelta anche complicata, dedicare delle buone ore per allenarsi, per prepararsi, credere, osare qualche volta, perché solo così si possono vivere delle sensazioni fantastiche. Prima di salutarti, col calcio come sei messo? Col calcio maluccio, nel senso che seguo molto marginalmente, quindi non sono sicuramente un esperto. Ma come li guardi da fuori? Perché sai, questa rivalità tra calcio e altri è molto, sì, molto accesa, soprattutto in alcuni sportivi. Guarda, è una domanda che dove si cade spesso, sì, in occasione della conquista da parte nostra di risultati, bravo, importanti, e ci chiedono se siamo arrabbiati con loro. Ma io non sono arrabbiato con loro. È chiaro che c'è uno sbilanciamento a volte un po' esagerato tra quello che comporta essere un gran calciatore ed essere un grande atleta di altre discipline. Non ho rimpianti nelle scelte che ho fatto. Mi dispiace che non ci sia la voglia da parte di chi invece crea gli spazi mediatici, ecco, diciamo così, per essere un po' più meno diretti, non ci sia la volontà di dare spazio anche alle altre discipline, perché non serve, a mio avviso, far vedere tutta una gara di canottaggio, tutta una competizione di scherma di sci di fondo, ma con le tecnologie odierne si possono dare dei contributi visivi talmente affascinanti da poter quantomeno incuriosire la gente nei confronti anche di altre discipline e consentire soprattutto ai giovani di avere più voglia di provare, di sperimentare quella che è la pratica sportiva. Non c'è dubbio, Rossano. Ti ringrazio, avanzami un po' di prosecco, io adesso devo andare avanti una mezz'oretta. Vediamo di fare il possibile, ma vedo che fuori è gettonata la bottiglia. Però insomma, i nostri sommelier sicuramente sono ben forniti. Grazie davvero, sei stato con noi, ci sentiamo presto. Grazie a voi, ciao a tutti. Ecco che torniamo, sempre qui in diretta da Vinitaly, ma se volete potete venirmi a trovare al telefono, non ho niente da offrirvi in questa condizione, però facciamo due chiacchiere insieme volentieri, se volete. 800 24 00 24, è il momento di cominciare a spiare questo weekend calcistico. Già che ci siamo, e per la cronaca vi do i risultati di B, che sono tutti finali salvo la partita più attesa, e cioè quella di Lecce, che è ancora in corso tra Lecce e Torino. Sta conducendo il Lecce 2-1 sui Granata. Per il resto, risultati finali per l'appunto: Cesena che ha vinto 2-1 sul campo del Binoleffe, vittoria in trasferta anche per il Crotone 1-0 ad Ancona, Cittadella batte Ascoli 2-0, Grosseto batte Vicenza 4-0, quindi Mantova-Piacenza 1-1, così come in Modena-Sassuolo e in Regina-Empoli. Il Brescia ha vinto 1-0 a Trieste, il Frosinone ha battuto 2-0 il Gallipoli, e stasera vediamo che cosa fa l'Inter. Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a tutti, ciao Gatti. Ciao Andrea, l'Inter a Firenze. Ho l'impressione, prima parlavamo con Graziano Rossi, per la curva decisiva in questa corsa a scudetto. Eh sì, e soprattutto l'Inter è attesa da 4 partite in 10 giorni, che è parecchio. Oggi quella con la Fiorentina, martedì l'alta con la Fiorentina per la Team Cup, poi venerdì 16 Inter-Juventus e martedì 20 Inter-Barcellona. Insomma, come programmino in 10 giorni non c'è male. E sarà ovviamente necessario amministrare o cercare di amministrare quelle poche energie che rimangono. Per questo appare un po' chiaro a tutti il fatto che l'Inter stasera darà tutto nella partita contro la Fiorentina, schiererà la sua formazione migliore ed è probabile che martedì nel secondo Fiorentina-Inter sia un po' più circospetta, per così dire. La qualcosa ha già scatenato, come saprete, un altro inferno di polemiche e di sospetti, perché soprattutto credo con provenienza Roma si adombra il fatto che ci sia addirittura una combine tra Inter e Fiorentina, vista l'amicizia tra le due società. Mi sembra un po' prematuro per dirlo. Possiamo, ma siamo però bravissimi in questo, esatto, tu lo sai, no? Esatto, mi sembra un po' presto, senza contare che poi ci sono state anche altre partite un po' strane già soltanto sabato scorso, quindi non ma è no, che ma andiamo anche un po' indietro, insomma, perché partite un po' strane sono cominciate un mese fa, prima ancora, sì, della primavera, infatti, secondo me. Infatti, con quelle strane partite con le quotazioni sospese. Bravo. Che abbiamo già visto. Però ecco, dicevo, a naso, a logica, è probabile che stasera l'Inter giochi una buona partita perché deve mantenere la testa della classifica, giocherà con i migliori che ha, vedremo se con Balotelli o Pandev, e cercherà di vincere questa partita contro una Fiorentina che è apparsa finora un po' in disarmo, almeno nelle ultime settimane. Quindi il pronostico a favore dell'Inter stasera ci sta tutto. E poi vedremo come amministreranno le energie nei prossimi giorni. Di sicuro quello che è apparso chiaro negli ultimi due mesi, secondo me, è che l'Inter quest'anno per la prima volta davvero ha quasi fatto una scelta, se non altro psicologica, mentale, tra campionato e Champions. Hanno, sì, puntato moltissimo delle loro energie, dei loro sforzi, del loro lavoro sulle partite di Champions, tralasciando un po', forse colpevolmente, forse volendolo, forse no, il campionato. E da qui è nata la rimonta di Roma e Milan, che credo siano, come tutte le rimontanti, un po' in vantaggio in questo finale, soprattutto perché l'Inter ha il doppio confronto col Barcellona, quindi secondo me qualche sorpresina possiamo aspettarcela. Sì, e soprattutto la Roma più del Milan, anche se, insomma, sì, a leggere le dichiarazioni si ha l'impressione di un Inter grosso modo assediata, con Leonardo che dice il Milan non molla, sempre lì, Ranieri che proclama Inter ora ti azzaniamo, insomma, sono lì a stringere d'assedio l'Inter. Però sai cosa mi incuriosisce? Che fin qui, onestamente, l'Inter si trova la Roma con i denti piantati sul collo e il Milan lì pronto a prendere quello che viene, senza troppe chance, secondo me, torno a ripetere, però senza aver dato grandi segni di cedimento l'Inter. Io non l'ho mai vista, soffrire sul serio. No, perché anche lo scontro diretto con la Roma non l'ha perso nettamente, anzi, esatto, la partita che ha perso a Catania l'ha persa dopo la follia di Muntari, perché fino a Muntari non la stava perdendo, quindi hanno tenuto sempre un certo livello di concentrazione, a volte è mancata un po' di fortuna, a volte comunque hanno sbagliato loro alcune scelte in alcune partite, però non ha mai sbragato, come dici tu, l'Inter, questo sì. Però io credo che con un Inter-Barcellona e un Barcellona-Inter nel giro di 8 giorni a fine mese qualcosina in campionato dovranno cedere comunque, e per questo è ancora più grave il fatto che hanno perso troppi punti tra febbraio e marzo, ed è il rammarico, sì, di Moratti che abbiamo sentito nei giorni scorsi. Sì, Milan sempre lì, arrancando però con l'aria di chi fa fatica a stare davvero dentro a questa partita. Io ho sempre pensato che senza Nesta e Pato il Milan valesse molto meno della classifica che ha adesso, infatti quando sono mancati questi due il Milan ha pagato moltissimo, perché Nesta è l'architrave della difesa e Pato è il terzo attaccante che può infilare le difese che già sono preoccupate di marcare Ronaldinho e Borriello. Senza loro due il Milan ha poche chance, secondo me, di recuperare l'Inter, però potrebbe esserci una gestione delle forze da parte della Roma complicata, perché la Roma è ancora impegnata anche in Team Cup, sì, e questo potrebbe in qualche modo far rientrare il Milan se il Milan tenesse il passo. Però ecco, è chiaro che adesso la favorita nella rimonta è la Roma. È la Roma, non c'è dubbio. Sì, anche per il calendario. Andrea, invece, in quello psicodramma che è la stagione della Juventus, domani c'è un'altra partita che non puoi sbagliare, Juventus che, insomma, ne parlava domenica scorsa, in un altro campionato un po' più di qualità e di livello, una squadra che ha perso così tante partite, che ha così tanti problemi, se la starebbe già sognando la qualificazione alla prossima Champions League. Invece la Juve rimane in corsa pur con tutti i suoi limiti e i suoi difetti. Oggi leggevo di Benitez che già detta le condizioni per arrivare, e sono condizioni non da poco, se è vero, che dice: vengo però mi prendete Fernando Torres, vengo però mi tenete Buffon, Chiellini, tutti i migliori, vengo però se c'è il quattrino, se no non vengo. E quindi non viene, ecco, perché insomma mi sembrano tutte condizioni impresentabili, che la Juve non può accettare, ammesso non concesso che ci sia davvero una trattativa reale, perché io continuo a credere che la Juventus, se cambierà, cioè quando cambierà, cambierà con Prandelli, nonostante tutte le dichiarazioni di facciata. Il fatto che loro con 12 sconfitte siano ancora a ridosso della zona Champions ci racconta moltissimo del livello probabilmente di questo campionato, che è andato un po' così incalando. L'Inter capolista a 10 punti in meno lo scorso anno, quindi c'è stato un livellamento ulteriore purtroppo verso il basso, e quindi anche con 12 sconfitte puoi ancora aspirare alla Champions League. Questo è un dato secondo me spaventoso, incredibile. Hai ragione. Prima di salutarti, Andrea, spendiamo una parola per la partita forse più bella del mondo che si gioca questa sera al Bernabéu, ore 22, Real Madrid-Barcellona. È davvero la partita più bella del mondo in questo momento? Per forza, altre dubbio, così non belle non se ne vedono. Non se ne vedono, forse c'è il Manchester United col Chelsea in Inghilterra che può essere a questi livelli, però è chiaro che come allure, come anche aspetto mediatico, come giocatori di richiamo, Real Barcellona non ha uguali. E già io ebbi la fortuna di seguire dal vivo la partita di andata al Camp Nou, e fu secondo me la più bella partita dell'anno come intensità tecnica e tattica. Credo che stasera si potranno ripetere a quei livelli, e le assenze di Ibrahimovic e Kakà secondo me toglieranno anche poco allo spettacolo, perché nell'uno e nell'altro quest'anno si sono davvero inseriti nel gioco delle due squadre. Anzi, sembra quasi che senza Kakà il Real sia un po' più fluido, e senza Ibrahimovic la manovra d'attacco del Barcellona corra un po' meglio, anche se fosse un pensieraccio, però lo pensano in molti in Spagna. Forse è un pensieraccio, però appunto in molti ce l'hanno in testa, compresi i rispettivi allenatori, quindi qualcosa vorrà pur dire. Grazie Andrea, un abbraccio. A voi, ciao. Torniamo, rush finale anche per noi qui in diretta da Vinitaly. Sono un po' rammaricato del fatto che non mi venite a trovare oggi, però pazienza, siamo qui. 800 24 00 24, saremo qui, no, non qui a Milano, in studio naturalmente, domani dalle 17 alle 19, poi dalle 20 e 30 alle 21 il basket, come ogni benedetta domenica. C'è anche un'altra notizia che vi voglio dare, perché è stata sospesa la Final Four della Champions League di pallavolo. Era in gara anche Trento, si doveva giocare a Lodz in Polonia, però sapete bene della tragedia che è successa, che ha coinvolto i vertici del governo polacco, e quindi questa Final Four è stata annullata, si doveva tenere tra oggi e domani, annullata e rinviata, data da destinarsi, ora date cercasi, perché nel calendario così fitto non sarà semplice nemmeno far fronte a questa emergenza. A proposito di emergenze, proviamo a sentire quali sono quelle delle nostre di Serie A, insomma un 14 minuti da Napoli-Parma che apre il programma, e alle 20.45 Fiorentina-Inter. Giovanni Capuano, buonasera. Ciao Carlo, buonasera a te. Da dove vuoi partire, Giovanni? Ma allora, liquidiamo Napoli-Parma rapidamente, perché liquidiamo Napoli-Parma. Sono formazioni ufficiali, tra l'altro nel Napoli non c'è nessuna novità, si gioca col tridente Amsic, Quagliarella, Lavezzi. Napoli che, se vince per qualche ora, assapora il quarto posto in solitudine, aspettando il risultato di Palermo e Sampdoria. È una mezza rivoluzione invece quella di Guidolin nel Parma rispetto alle attese. Parma che giocherà con il 3-4-3, davanti giocano Bojinov prima punta, e poi Biabiani e Antonelli sulle fasce. Nei quattro di centrocampo ci sarà Jimenez e ci sarà Zenoni, quindi diciamo Parma che gioca con 3.5, il resto della squadra abbastanza difensiva per cercare di contenere il Napoli, che in casa è squadra che certamente è temibile. Questo per quanto riguarda Napoli-Parma. Prima di invece di Fiorentina-Inter c'è Gianluca da Varese. Buongiorno. Buongiorno, Non ho niente da offrirle se non un brindisi dopo, glielo dedico. Troppo forte. Volevo ringraziarla perché ci ha messo su prima Galeazzi e volevo chiederle se le piaceva l'idea di metterlo a commentare la nazionale quando sarà in Sudafrica. Cosa dice? Di calcio, ma non credo che siano le sue corde, insomma. Ognuno, Galeazzi lì si trova nel suo sport, nel suo mondo, in qualcosa che sente profondamente, no? Sì. Quando commenta le gare di canottaggio. Sugli altri sport sa essere un grande professionista, però quella passione deve averla dentro. Io non so se ce l'ha per la nazionale di calcio. Penso che la senta più per Rossano Galtarosa, che prima ci ha fatto compagnia, che non per Totti o per questi. Totti, vabbè, Totti non ci sarà molto probabilmente, per tutti quegli altri. Non credo che la senta così profonda quella passione. E quella passione, come dice anche lo slogan della nostra radio, si sente quando parli dentro a un microfono. È vero. La ringrazio, torni a trovarci. Alla prossima, grazie davvero. Allora, Giovanni, Fiorentina Inter, come la mettiamo? Allora, in Inter la mettiamo così, che dal ritiro della Fiorentina filtra qualcosa e filtra anche in questo caso qualche novità rispetto a quello che era atteso, non tanto nel modulo che sarà il 4-4-1-1 che Prandelli ha scelto in questo finale di stagione, quindi con Jovetic e Gilardino, e che di fatto sono le due punte. La rivoluzione riguarda più che altro la linea di centrocampo, dove rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia dovrebbe giocare Bolatti al posto di Donadel, dovrebbe rientrare Marchionni al posto di Gobbi, con Santana spostato a sinistra, quindi sostanzialmente una Fiorentina un po' più aggressiva, considerato che manca Vargas, si riteneva possibile l'impiego di Gobbi, che è un giocatore con caratteristiche maggiormente difensive, invece sembra alla fine stata scelta l'opzione con Marchionni e Santana sulle due fasce, in difesa Felipe preferito a Natali. Prandelli che deve stare molto attento, perché fra tre giorni poi c'è la semifinale di ritorno sempre contro l'Inter per la Coppa Italia, ma i rumors e le voci che vengono soprattutto da Roma, dove addirittura si parla apertamente di combine per questa partita, cioè uno scambio di favori tra Fiorentina e Inter, tre punti all'Inter in campionato e la finale di Coppa Italia alla Fiorentina, lo costringe certamente a non sbagliare le scelte. E per quanto riguarda l'Inter non trapela davvero nulla, se non che lo schema sarà lo stesso che oramai è il marchio di Mourinho soprattutto in Europa, quindi il 4-2-3-1, diciamo che diamo quasi per certo l'impiego di Balotelli dal primo minuto al posto di Pander, che tra gli uomini della linea d'attacco è quello che ha un po' più bisogno di riposare. Poi Mourinho recupera i quattro squalificati di sabato scorso contro il Bologna, quindi non ha nemmeno bisogno di un particolare turnover per dare respiro alla sua rosa, anche se ha giocato martedì in Champions a Mosca, partita tra l'altro che si è messa in discesa abbastanza in fretta. Quindi Zanetti in difesa, Cambiasso e Stankovic a centrocampo, poi bene o male confermati tutti. In due secondi ti dico che oggi molti giornali hanno scritto del ritardo di Maicon e dell'intenzione dell'Inter di cederlo a fine stagione, e nel pomeriggio ha parlato Caliendo, che è il suo procuratore, che intanto ha smentito il ritardo, ha detto che Maicon appena rinnovato non ha nessuna intenzione di andarsene, e ha detto, queste sono voci messe in giro per destabilizzare l'ambiente dell'Inter. Non parlerà fino alla fine del campionato Mourinho per quanto riguarda la Serie A e quindi gli impegni italiani. In linea di massima a naso la società condivide quello che ha detto oggi Caliendo, quindi c'è il clima davvero di Fortino da soli contro tutti. Anche se ho l'impressione che la questione di Maicon tornerà ad affacciarsi da qua all'inizio del mercato e probabilmente oltre. Perché Maicon va per i 30 anni e onestamente siccome come l'anno scorso, anche quest'anno l'Inter comunque farà mercato con i soldi che incasserà, l'anno scorso è stato Ibrahimovic e tra i tanti che possono pensare di partire, a questo punto non è così sbagliato pensare che il brasiliano sia in cima alla lista a mercato, va per i 30, il meglio l'ha certamente dato, quindi direi che potrebbe anche essere nell'ordine delle cose. Prima di parlare delle altre partite, voglio farvi sentire Fabiano da Tortona, che è in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Io volevo, grazie, sono un tifoso juventino, volevo sapere cosa ne pensavate voi di questo mio ragionamento. non è che la Juventus società eccetera perde un'altra occasione per poter impostare un discorso nuovo, diciamo come il Barcellona che tira su giovani e li sforna tutto spiano. Voglio dire, siamo allo sbando come squadra, come società eccetera, sarebbe un'occasione secondo me per cercare di investire in quella direzione. Volevo sapere cosa ne pensavate. Teoricamente sì, però Fabiano, la Juventus ha bisogno di tornare a vincere, di tornare a vincere in fretta. Ha speso moltissimi soldi, piuttosto male nelle ultime stagioni, e molti altri ne serviranno per costruire una squadra competitiva. È un problema di scelte, ma credo sarà anche un problema di quattrini. In teoria bellissimo, no? Lo stadio sta nascendo, magari può nascere una squadra nuova, diversa, con tanti giovani, eccetera eccetera eccetera, però mi sembrano discorsi un po' troppo fantasiosi, no? Un po' troppo ottimistici. La Juventus ha bisogno di tornare a vincere in fretta, ripeto, non credo con Benitez, perché ne parlavamo prima con Andrea Sorrentino, insomma Benitez per venire porta, è un'azienda Benitez, viene, porta uno staff, una rete di osservatori, vuole delle garanzie dal punto di vista dei giocatori, e non credo che questa dirigenza abbia la possibilità e la voglia di spendere tutti i quattrini che servirebbe per attuare il piano Benitez. Domani invece, molto più prosaicamente, c'è un Juventus-Cagliari che nello psicodramma bianconero vale moltissimo, Giovanni. Sì, Juventus che ha finito di allenarsi da pochi minuti, è in silenzio stampa dopo la disfatta di Udine di sabato sera, non c'è ancora la lista dei convocati. Diciamo che sono abbastanza certi i rientri di Buffon e di Chiellini. La Juventus, ricordiamo, subisce gol da 19 partite consecutivamente, senza Chiellini 6 gare saltate, ne ha vinta solo una e ne ha perse 4, quindi diciamo Zaccheroni ha assoluto bisogno dei suoi uomini migliori in difesa, difesa che sarà a 4 perché questa è stata provata oggi, con probabilmente De Ceglie sulla fascia sinistra al posto di Grosso. A metà campo non c'è Sissoko, che è squalificato, ci sono Camoranesi, Felipe Melo, Marchisio e Candreva, perché non c'è Diego, che insieme a Caceres è l'unico assente per motivi fisici. Davanti giocherà Del Piero, mentre Trezeguet sembra favorito nel ballottaggio con Iaquinta. Oggi si è allenato con i titolari Iaquinta e Mauri con le riserve, quindi diciamo che la coppia d'attacco dovrebbe essere Del Piero Trezeguet. Noi abbiamo ancora 3 minuti per parlare di quelle che inseguono, di quelle che sono alla finestra, che stasera staranno davanti alla televisione, che magari passeranno una notte di sogni, chi lo sa. Roma e Milan, come giocano domani? La Roma in casa con un Atalanta che ha un bisogno disperato di punti salvezza, e il Milan che riceve un Catania che invece è caricatissimo, ha vinto il derby di Sicilia, una classifica splendida, tutto sommato tranquillizzante. Come saranno Roma e Milan domani in campo? Allora, per quanto riguarda la Roma, ha recuperato Giulio Sergio, malgrado l'influenza, ci sarà, non ci sarà Juan, che non è stato neanche convocato al suo posto Mexès. Oggi Ranieri ha detto che il francese è un altro titolare, anche se sta soffrendo le scelte dell'allenatore. Totti ci sarà perché migliora, ecco, ci sarà Vucinic, anche se in diffida, e domenica sera c'è il derby. Ranieri ha detto: io penso una partita per volta, ci manca che risparmi Vucinic pensando al derby. A proposito di derby, fra 7 giorni la Lazio ha ben 6 diffidati, Rei ha fatto un discorso molto simile a quello di Ranieri, quindi domani giocheranno sia Ledesma che Flocari, che sono in diffida. L'unico diffidato eccellente che sarà risparmiato è Rocchi, ma perché per lui varrà la staffetta con Zárate, che domani partirà dal primo minuto. Per quanto riguarda invece il Milan, c'erano tantissimi dubbi e Leonardo non ha potuto scioglierli ancora tutti, ma alla fine dei tanti dubbi l'unico non convocato è il portiere Abbiati, quindi domani certamente giocherà Dida. Nell'allenamento di rifinitura hanno provato, e il provino sembra essere andato bene, sia per Huntelaar che per Ambrosini che per Seedorf che per Borriello, quindi tutti e 4 dovrebbero essere in campo, anche perché di alternative non ce ne sono molte, perché Mancini, ha detto Leonardo, è recuperato dal punto di vista fisico ma ha poco allenamento. In difesa Zambrotta preferito ad Abate. Grazie Giovanni. Grazie a te. Alla prossima, grazie Giovanni Capuano. Abbiamo le idee sufficientemente chiare, io credo, sulle formazioni che saranno tra oggi e domani. Faccio appena in tempo a salutare Davide dalla provincia di Mantova. Buongiorno. Buonasera a tutti. Buonasera. Ho appena sentito che Zerba di Ida con il via da tifoso milanista. Non ho sentito bene, mi scusi. Ho appena sentito che gioca di Ida da tifoso milanista Premo. Io non riesco a darle torto, ma lo sapete, insomma, Dida è non è un portiere che infonde sicurezza e tranquillità a una difesa, mettiamola così. Poi a prescindere che la stagione di quest'anno mi ricorda molto quello di Zaccheroni, sì, dello scudetto del 99. Sì. Sono molto spaventoso. Sì. Una domanda. Le chiacchiere tra Di Bar dicono che Leonardo potrebbe diventare il nuovo CD della Selezione. E Lippi a fine mondiale potrebbe subentrare al suo posto. È vera, sì, questa chiacchiera? La lascerei al bar per il momento. Guardi, le dico la verità, la lascerei al bar perché non mi sembra molto credibile. Tra l'altro anche oggi Leonardo mi ha perso occasione per dire resto qui, non me ne vado, eccetera eccetera eccetera. Io credo che il futuro del Milan sia ancora in pieno divenire. Vale per il Milan un po' il discorso fatto per la Juventus. Bisogna vedere quanto c'è in cassa, credo non tantissimo, a occhio e croce. Ci fermiamo qui, appuntamento è naturalmente per domani dalle 17 alle 19 con il calcio. Io adesso mi dedico a Vinitaly. Grazie a Filippo Aureggi che mi ha assistito qui in regia, Carmelo Lauricelli invece in regia a Milano, Giorgio De Luca in redazione. Grazie a tutti, buona serata.